mi raccomando, dai tutto al meglio, vai cedere e blando verso un nuovo sbadiglio. Una nuova militanza. Se ha l'apparenza o la pazienza di chi affonderà la mia coscienza al seme della cancerosità, e si contorce, non capisce che è soltanto